Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30, i reportage, le inchieste, le narrazioni, le storie di cronaca italiana. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Oggi Italia in controluce trasmette un reportage di Alessio Maurizi sulle primarie del Partito Democratico a Milano. Sentirete le voci dei tre candidati, Stefano Boeri, Giuliano Pisapia, Valerio Nida. I problemi di Milano in vista di Expo 2015, la sfida locale in un clima di incertezza politica nazionale. Domenica il centro-sinistra milanese riparte dalle primarie per riprendere il filo di una storia un po' dissestata. Facciamo qualche passo indietro. 1993, appena scoppiata Tangentopoli, il Partito Socialista che governa anche a Milano è nella bufera. Alle elezioni comunali il leghista Marco Formentini sconfigge Nando Dalla Chiesa. Dopo decenni di governo meneghino, la sinistra abbandona il primo scranno di Palazzo Marino e da allora non c'è più tornata. Per lo scrittore Antonio Scurati, anche in quell'occasione Milano ha anticipato una tendenza nazionale. Milano è stata e continua a essere un laboratorio della modernità anche politica. E anche da questo punto di vista, secondo me, è stata all'avanguardia, nel senso che la perdita di presa, diciamo così, sulla città da parte della sinistra tradizionale ha anticipato un po' quello che è accaduto più in generale nel paese, cioè quello smarrimento delle proprie ragioni storiche della sinistra progressista. Nel frattempo, restare fuori dai centri di comando dell'Italia del Nord è diventata per i dirigenti del centro-sinistra un'abitudine e anche un'ossessione. Ma non sempre per invertire la rotta si sono giocate le carte migliori e così, elezione dopo elezione, i candidati sindaci di Milano sono state figure sempre meno convincenti. Lo spiega Michele Serra, che vede in Stefano Boeri, Valerio Nida e Giuliano Pisapia tre novità positive. Ma la novità è positiva perché dopo anni nei quali si stentava a trovare un candidato, ce ne sono addirittura tre e devo dire tutti e tre di alto profilo. E questo, insomma, è un dato, diciamo, aritmeticamente vistoso e rilevante. 3, da 0 a 3. O da mezzo a 3, perché diciamo che alcuni candidati precedenti valevano, anche se erano delle brave persone, 0,5. Questa l'analisi di Giuliano Pisapia, avvocato di mille cause, anche nazionali, ex parlamentare di Rifondazione Comunista, oggi sostenuto da Sinistra, Ecologia e Libertà. Le difficoltà della sinistra sono evidenti a tutti, perché è stata una sinistra rissosa, una sinistra che guardava più al suo interno, soprattutto a livello di partiti politici, anziché guardare all'esterno e alla società. Una sinistra litigiosa che guarda a se stessa, non è forse questa l'immagine dei recenti governi di coalizione, Ulivo o Unione che fosse? Un'immagine dalla quale cercano vistosamente di distanziarsi tutti i candidati in corsa domenica, anche Stefano Boeri, architetto sostenuto dal Partito Democratico ufficialmente, alla sua convention al Teatro Smeraldo, però niente bandiere di partito e al PD al massimo un ringraziamento. Io, non uomo di partito, ringrazio quel grande partito popolare che è il Partito Democratico, che ha deciso di aiutarmi in questa sfida e mi ha fatto conoscere queste persone straordinarie. Candidati indipendenti con una propria lista che cercano di smarcarsi dai partiti ritenuti macchine non efficienti, scarburate, poco meritocratiche, anche per l'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Nida. Ma in queste primarie, forse per la prima volta, o comunque per la prima volta a Milano, c'è un discorso di desiderio di nuova politica, di nuova alleanza tra la città, una città che alla base è ricca di movimenti, associazioni, gruppi di volontariato e istituzioni che fino ad oggi invece sono apparse spesso sorde. La mia candidatura nasce così, quello che può portare come garanzia è prima di tutto l'assoluta indipendenza da poteri economici più o meno opachi e anche da apparati di partito. Quarto candidato, il fisico ambientalista Michele Sacerdoti. Io mi occupo da una vita dei problemi di Milano, mi sono occupato di questioni urbanistiche, edilizie, di questioni dell'ambiente, delle piste ciclabili, eccetera. Ho fatto 10 anni da consigliere di zona 3. Poi ho fatto altri 10 anni come consulente dei comitati dei cittadini di Milano, sugli City Life, su Porta Nuova, eccetera, quindi conosco a menadito tutti i problemi della città. Ricapitolando, domenica gli elettori del centro-sinistra decidono quale sarà il candidato sindaco a Milano. Potranno scegliere tra 4 nomi, Stefano Boeri, 54 anni, architetto che punta soprattutto a convincere le eccellenze e le professioni, moda, design, editoria, e ha incassato l'appoggio del Partito Democratico. Giuliano Pisapia, 61 anni, rispettato avvocato, ex parlamentare di Rifondazione Comunista, che sogna di ricreare sopra il Po l'effetto sinistra, l'effetto Vendola che lo sostiene. Valerio Onida, 74 anni, ex presidente della Corte Costituzionale, sostenuto da intellettuali e società civile. E infine Michele Sacerdoti, 60 anni, ambientalista con esperienze di politica locale. Grandi nomi, anche se Michele Serra un rischio lo intravede. Il dato che mi lascia leggermente perplesso è che tutti e tre i candidati rappresentano i ceti professionali, diciamo la borghesia democratica di Milano, ecco. E quindi forse resta un pochino scoperto, almeno sulla carta, l'appeal popolare del centro-sinistra. Serra, milanese, che da sempre interpreta con i suoi articoli gli umori di una parte della sinistra, il suo endorsement lo fa per l'avvocato Pisapia. Ma io per adesso ho una certa preferenza per Pisapia. Il mio consiglio è di non atteggiarsi. Io ho come l'impressione che ci sia tutta una fase della politica nazionale, insomma, nella quale la gente ha imparato a leggere le recite, ha imparato a leggere appunto quelli che sono troppo attenti alle strategie di comunicazione. Secondo me una persona che oggi si presenti anche con le proprie eventuali debolezze, ma si presenti dando l'impressione di essere esattamente la persona che è, potrebbe aprire un varco. Ed ecco il manifesto politico del candidato Giuliano Pisapia. Milano è stata per tanto tempo governata da sindaci di sinistra, da sindaci socialisti, in ogni caso di centro-sinistra, che hanno fatto un'ottima politica e che hanno fatto di Milano la città dell'accoglienza, la città della coesione sociale, la città dove chi veniva trovava ospitalità, trovava lavoro, trovava anche una casa. Ecco, dobbiamo e possiamo ritornare a quella Milano. Modernità, solidarietà, accoglienza e innovazione, perché evidentemente è cambiata la situazione soprattutto a livello di lavoro, che è una delle priorità. Bisogna anche rispetto al tema del lavoro trovare strumenti innovativi, perché i nuovi lavori possono creare nuova occupazione e quindi nuovo sviluppo. Per Antonio Scurati, invece, è Stefano Boeri la novità più positiva in campo in queste primarie. Sì, io personalmente, pubblicamente, sostengo la candidatura di Stefano Boeri e vedo nella sua candidatura un ritorno a un'idea del potere basata sul sapere. Boeri è in Italia, ma oserei dire in Europa, uno degli uomini che per la sua professione ad alto livello di architetto e urbanista meglio conosce più approfonditamente le tematiche, le problematiche e anche alcune delle soluzioni a queste problematiche della vita di una grande metropoli che tutti noi vogliamo europea come Milano. L'idea che appunto il potere politico possa essere consegnato da parte di una cittadinanza così consapevole ad un uomo che la guidi sulla base del suo sapere e non delle sue reti di potere precostituito, ecco, mi sembra un'idea assolutamente democratica, forse anche nuova rispetto alle stanche consuetudini della politica nel nostro paese negli ultimi anni. Boeri, l'archistar che ha lavorato per la Moratti, ma non sarà troppo snob? Lui assicura di no, che ha lavorato coi cittadini, piantato gli alberi in periferia, ristrutturato cascine sociali e poi propone di dare un taglio alle consulenze e valorizzare le risorse del comune, come spiega in questa intervista al sole24ore.com. C'è un bisogno di ridare legittimità, dignità, orgoglio agli uffici comunali. Teniamo conto che comunque tra uffici comunali e uffici di gestione delle municipalizzate e delle partecipate l'azienda che lavora intorno al Comune di Milano è un'azienda di 50.000 persone. E che io trovo che una delle cose più sbagliate che è stata fatta in questi anni dalla giunta Moratti-Brichetto è stata quella di umiliare gran parte dei quadri dirigenti di queste aziende, così come ci sono consigli di amministrazione nelle municipalizzate che occupano oggi una pletora di politici, diciamo così, trombati, che senza nessuna competenza vengono messi nei consigli di amministrazione. Questa è una cosa che deve sparire. Tanti nomi per Valerio Onida: Umberto Eco, Ermanno Olmi, ma anche Umberto Ambrogioli, Benedetta Tobagi lo sostengono. Protagonista di una battaglia tra i quattro candidati per distribuire il sostegno dei partiti tra tutti, a cominciare dagli elenchi degli elettori a cui inviare la propaganda. Adesso che ha ottenuto un parziale successo, punta ancora sulla trasparenza. C'era questo problema di riuscire a mandare gli indirizzi dei votanti precedenti. Ci siamo faticosamente e tardivamente riusciti a mandare un documento. Ma non è tanto questa la questione che io ho sollevato, quanto il fatto che le primarie, che originariamente avrebbero dovuto essere un confronto tra candidati, sono state trasformate in una gara fra partiti. In queste cose bisogna essere massimamente trasparenti. Il regolamento delle primarie prevede un tetto di spesa e io naturalmente intendo scrupolosamente rispettarlo. Ho pubblicato le spese fino adesso sostenute e penso e spero che anche gli altri lo facciano con uguale rigore, perché le regole vanno osservate sempre da tutti. E allora appuntamento per gli elettori di centrosinistra domenica 14 novembre a Milano. Che vinca il migliore. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. L'archivio di tutte le puntate sul nostro sito radio24.it. Per comunicare con noi avete tre possibilità: Radio 24, Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter e la mail controluce@radio24.it, dove potete inviarci i vostri temi, le vostre segnalazioni dalle vostre città, dai vostri paesi. La mia voce torna domani alle 6:30, naturalmente su Radio 24.